Fish Bit di Giulia Crivelli. Chilling video terrifies nation. Andy Borowitz del New Yorker ha intitolato così un breve articolo apparso sul sito del settimanale americano che parlava di un video mandato in onda dalla CNN martedì. In italiano possiamo tradurre con un video atroce, chilling, getta la nazione in uno stato di terrore. Nel video infatti 9 estremisti islamici minacciavano pesantemente tutti gli americani, scene a cui in Europa forse siamo più abituati da un anno circa a questa parte di quanto non lo siano i telespettatori negli Stati Uniti. La parola che ci interessa è chilling, aggettivo che viene dal verbo to chill. Chill è anche nome e aggettivo. Il significato, reale o figurato, è sempre legato al freddo e al gelo. Jan put on a thick scarf to protect against the chill. Jan si è messo una sciarpa pesante, thick, letteralmente spessa, per proteggersi dal freddo, o ancora, sempre come aggettivo, a chill wind rattled the dry leaves on the porch. Un vento gelido fece volare le foglie secche sul portico. Un esempio di uso del verbo invece è you should chill white wine and beer before serving or drinking them. Dovresti raffreddare il vino bianco e la birra prima di servirli. Per quanto riguarda i modi di dire, c'è il phrasal verb to chill out, che significa rilassarsi, calmarsi. I like to chill out in front of the television with a glass of wine and some nibbles. Mi piace rilassarmi davanti alla televisione con un bicchiere di vino e qualche cosa da sgranocchiare, nibbles. My friend was upset and uptight, so I told him to chill out. Il mio amico era tutto teso e agitato, così gli ho detto di calmarsi. Dal significato legato a relax nasce anche la definizione di chill out music, un tipo di musica elettronica rilassante, forse, almeno negli intenti, nata a Ibiza negli anni 90. Poi c'è l'espressione wind chill o wind chill factor, che significa effetto vento sulla temperatura. Accade infatti che, ad esempio, ci possono essere 5 gradi, ma che la sensazione sia di una temperatura molto più bassa per il wind chill factor. In inglese diremmo the perceived decrease in air temperature felt by the body on exposed skin due to the flow of air. Wind chill numbers are always lower than the air temperatures for values where the formula is valid. C'è infatti una formula per calcolare il wind chill factor.